Ciao Leila, spero ti sia arrivato questo bigliettino. È importante. A volte le cose importanti sono scritte su un bigliettino di carta. Ma ti starai chiedendo chi sono. Sono Diego, ultimo banco a destra. Hai presente il termosifone, il bambino tutto rosso appiccicato al termosifone? Sono io. La vedi quella pizzetta rossa pure lei, sempre sul termosifone? È la mia. Volevo dirti che in questo primo giorno di terza elementare la classe è illuminata dai tuoi occhi molto belli. Dopo, se vuoi, ti do un pezzo di pizza. Ciao, sempre Diego. Bella la frase che ti ho scritto, vero? Quella che dice in questo primo giorno di terza elementare tutta farina nel mio sacco. Ho fatta leggere anche a Pietro, il mio compagno di banco, dice che è veramente forte. Niente, volevo dirti solo questo, Leila, che era piaciuta pure a Pietro. Ti amo. Ciao Leila, sono Pietro. Ammazza e forse il bigliettino che ti ha mandato prima Diego. Ancora Diego, senti, mi hai mandato un bigliettino di risposta che è andato perso? Perché qui ancora... Vabbè, comunque. Cara Leila, poiché non sono sicurissimo che ti siano arrivati i miei bigliettini, stavolta ho scelto la via aerea. Più veloce, più sicura. Ho scommesso con Pietro che se atterrava dritto sul banco l'aeroplanino ti amavo tantissimo, se atterrava per terra ti amavo solo tanto e se atterrava sulla cattedra della De Dominicis erano cazzi nostra. Nota sul registro! Oggi 18 settembre 1985... Diego Romano lanciava ripetutamente aeroplanini contro Leila Liverani, portandole al pianto e provocandole un piccolo ematoma. Per punizione dovrà scrivere sul quaderno per 20 volte. Non lo faccio più. Drin. È pronto? Parlo con la madre di Leila. Sì? Salve, volevo sapere come stava Leila. Ma chi è? Non sarà mica quel disgraziato di Diego? Tu. Drin. È pronto? Salve, sono un'amichetta di Leila. Guarda, ti riconosco, Diego. È mezzanotte, chiamo subito la polizia. Tu. Ciao Leila, Diego. Ieri al telefono non ero io. Caro Diego, sono Leila. Ti invito a smetterla con questi bigliettini. Per tua informazione li ho consegnati già tutti uno per uno alla nostra bravissima maestra De Dominicis. Ma davvero gli ha detto De Dominicis? Sì, a me piace fare le cose alla luce del sole. E allora i bigliettini che mi stai mandando adesso non glielo dico a De Dominicis, solo perché ti amo. La fai finita e basta pure con le telefonate. Lo so che sei stato tu, di la verità. Vuoi la verità? Ti amo. Vuoi metterti vicina di banco? E Pietro, scusa? Hai ragione, allora mi vuoi spoisiare quando siamo grandi? Caro Diego, si dice sposare, non spoisare. Vabbè, sposare come te pare. Se vuoi posso già portarti l'anello in gita. E comunque non c'entro nulla con quelle brutte telefonate. Drin. È pronto? Buonasera, stiamo facendo un'indagine sui sentimenti dei romani. Sua figlia è innamorata di qualcuno della classe? È ancora quel Diego? Guardi che chiamo. Tu. Caro Diego, ti scrivo dietro la lavagna per dirti che abbiamo solo 9 anni. Siamo troppo piccoli per l'amore vero. Al massimo, se vuoi, possiamo metterci vicini nel pullman della gita. Rispondi sì o no dietro le lavagne a ricreazione. Cara Leila, tu davvero pensi che il mio amore di 9 anni non sia vero? Sì. Siamo troppo piccoli per amare. Ah no? E allora Candy Candy? Ma quello è un cartone animato. E Piccole donne? È un libro, l'ho già letto 7 volte. Labyrinth? È un romanzo straordinario del 1967. Nel 98 poi ne hanno fatto una trasposizione cinematografica. La storia è tutta inventata. FBI Operazione Gatto? Credi davvero sia ispirata a una storia vera, Diego? Ma quanto ne sai tu? È certo, perché da grande anch'io farò la scrittrice. Ha detto la De Dominicis che se mi impegno... Che palle sta De Dominicis! Hai detto una parolaccia, hai detto. Buona a sapersi. Nota sul registro. Oggi l'alunno Diego Romano scriveva sul retro della lavagna che palle sta De Dominicis. Invito il consiglio di classe a rivolgersi a uno psicologo del comportamento infantile che io non ce la faccio più. Pietro, sono Diego. Ho notato uno strano scambio di merendine oggi a ricreazione. Quel Kinder Brioso è forse un regalo di fidanzamento per Leila prima della gita. Diego, è lei che mi ha dato il Kinder Bio, io neanche me lo so mangiato. C'ho 8 anni, mia madre dice che mi rimetto le zozzerie e mi riempio. Se mi becca col Kinder mi fa un culo così. Grazie Pietro, ti credo. Dopo se vuoi ti do un pezzo di pizza. Dream! È pronto? Pronto, salve, sono Pietro, quello Pietro. Posso parlare con lei là, se non la disturbo durante i compiti? Ah, Pietro, ciao Pietro. E come stanno i tuoi? I miei? Li mortacci, questi si sono fidanzati a casa. Posso parlare con lei là? Ma certo, certo, te la passo subito. Salutami tutti, eh? Sì, sì, mortacci vostri, mortacci. Pronto? Pietro, sei tu? Sì. Pietro, ma che stai facendo? Stai bene? Levati le mutande. Tu. Vuole un pezzo di pizza, dottoressa? No, thanks. Diego, mettiti calmo. Tu sai perché sei qui con me? Certo. Non mi vogliono mandare in gita ai Musei Vaticani con Leila. Che cosa vedi in questo disegno, Diego? Leila. E in quest'altro? Leila. E in quest'altro ancora? Leila. Sei sicuro? No. Good. E che cosa vedi allora? Pietro, che ci via le botte dopo la gita perché ci ha provato con Leila. Dream! Scuola elementare Antonio Vivaldi, dica. Pronto? Sì, dica. Sono un ragazzo arabo. Ah, sì, e come ti chiami? Mi chiamo Allah, mi chiamo. Come, scusa, mi stia a sentire. Qualcosa di molto brutto accadrà alla terza C se questa mattina andrà in gita ai Musei Vaticani. Edizione straordinaria del telegiornale regionale. Causa una storia Antonio Vivaldi di Roma. Questa mattina, dopo un finto allarme e bomba, sono stati sgombrati bambini, insegnanti e impiegati dell'istituto. Durante l'evacuazione sono state scene di panico, con alcuni bambini caduti a terra e altri hanno subito leggere contusioni per essa. L'allarme è stato un brutto scherzo di un alunno della scuola medesima a cui era stato impedito di recarsi per la gita per problemi di disciplinare. Vi mostriamo una sua foto dove, per motivi di privacy minore, non possiamo esporre il viso del bambino intero. Cara Leila, stavolta l'ho fatta grossa, lo so. Non pensavo arrivasse la polizia e tutto. Ma non cambiare sezione a causa mia. Forse avete ragione. Non ci può essere l'amore vero a 9 anni, ma io sentivo solo che volevo starti più vicino, Leila. Spero potrai perdonarmi almeno per questo. Ma non cambiare sezione. Per non darti più fastidio, non verrò mai più a scuola io. Ecco, te lo giuro. Non mi spaventa perdere l'anno. Che ne dici? Caro Diego, ho strappato il tuo ultimo bigliettino senza neanche leggerlo. TVB TVTTB TVTTTB No ITV MOTPB No no ITV MOTPB TMVPB No no ITV PB No no SISI ITV PB No no SISI No no SISI No no S TDRDP TDRDP Non ho capito TDRDP Ma che cazzo sta? TDRDP! Ma che? Un rebus? No, e che? TDRDP è un modo per dire che ti sto a dire un'altra cosa. TDRDP! Ah! E che mi vuoi dire dopo? Telefono, ma. Telefono. Telefono, ma. Cazzo vuol dire? Au! Ars er telefono e telefono! Ah! Ho finito le sorti. Pur tu! Pure io ho finito le sorti. Con tutti questi messaggi stiamo spendendo un sacco di sorti. Vero. Pur se a breve sempre so un sacco di sorti. Vero. E come fanno? Citofono. Vabbè, ti vengo a citofono. E chi è? Buonasera, sono Loredana. Sono amica di Leila. Perché sta Leila? Eh sì, un attimino, per favore. Ma quanto ti mette questa? Oh? Quanto ti metto? Sì, chi è? Allora, là, sono Loredana. Non si stava a capire niente con quei messaggetti. Dai, scendi. No. Ma perché? Che fai? Non voglio uscire. Lascia perdere, Loredana. Oddio, che è successo? Dai, là. Mi sono lasciata. Ti sei lasciata a Cantonello? Antonello Chio. Ah no, con Antonello mi sono lasciata l'altra settimana. Ti sei lasciata con Sandrino? Con Sandrino ieri. Oggi mi sono lasciata con Luigi. No, mannaggia, Luigi mi dispiace tantissimo. Con Luigi sei investita tutta te stessa, sei investita. È dura, è dura. Quando cerchi l'amore vero, va così, va. Mi sto prendendo pure un sacco di farmaci. E che te stai a prendere, Luda? Leila. Sapessi. Dimmi che te stai a prendere, Leila. Sapessi. Che te stai a prendere, Leila? Il Lasonil. Madonna mia, il Lasonil te stai a prendere. Lascia perdere, guarda. Periodo di massima depressione. Perché tu te fai troppe pippe mentali, Leila. Tu ti butti nello studio, te isoli quando mamma. Non puoi mollare la ricerca dell'amore vero, Leila. Forse hai ragione. Adesso scendi che sei stotti due, se so. E chi so questi? Sto due dei 14 anni, un chitarrista e un batterista, due musicisti, dai, scendi. A te chi ti piace? Il batterista. Com'è il chitarrista? Tormentato. Scendo subito, aspettami, 5 minuti, mi veste. Oh, non te andare, 5 minuti. Titi! Ciao Leila. Loredana mi ha dato il tuo numero. Mi ha fatto piacere rivederti dopo tanto tempo. Quanti anni saranno passati dalle elementari? 5, 6. Che ne dici di vederci uno di questi giorni? Adesso ti lascio che la vita da chitarrista non mi dà tregua. Diego. Titi. Ciao Leila. Poi non ti sei fatta più sentire. Non insisto perché non voglio invadere la tua privacy, ma volevo farti i miei più sinceri auguri di Natale. Ecco. Titi. Grz. Titi. 3, 2, 1, buon capodanno. Scusa Leila, sono mezzo ubriaco. Auguri di buon capodanno. Titi. Grz. Titi. Buona Pasqua Leila, a te e a tutta la tua famiglia. Titi. Grz. Titi. Buon compleanno. Finalmente sono 16, eh. Titi. Grz. Titi. Non è che ti hanno regalato una bella ricarica? Che ti hanno regalato? Titi. Un cazzo. Titi. Buon primo maggio. Titi. Grz. Titi. Buona festa della Repubblica. Titi. Grz. Titi, buona festa dell'uva di Marino. Titi, grazie. Titi, ancora buon Natale. Titi, grazie. Titi, buona domenica. Titi, grazie. Titi, buon Capodanno. Hai visto come passa il tempo? Titi, grazie. Titi, buona. Titi, grazie. Titi, auguri. Titi, grazie. Titi, grazie. Titi, scusa Leila, perché mi hai mandato quest'ultimo sms con scritto grazie? Io non ti avevo fatto nessun tipo di augurio. Titi, scusa, stavolta mi sono sbagliato. Titi, non ti preoccupare, capirai, può capitare quando uno va in scioltezza. Titi, grazie. Titi. Ciao Leila. Sta per arrivare un altro Natale e pensavo, e se mi facessi questo internet di cui parlano tanto? Ma magari su internet potresti scrivermi bene come mai non sei voluta uscire con me in questi ultimi 2 anni, ma alla fine poi mi hai sempre risposto ai messaggetti. Titi. Vabbè. L'amorevero.com. Cari lettori del mio blog, e se in questi anni fossi fuggita dall'unico amore vero della mia vita? E l'unico che veramente ha smosso qualcosa dentro di me, l'unico che ha rischiato per me, che mi è sempre stato vicino in tutte le occasioni importanti, anche la festa del vino di Marino, per dirne una. Sì, Diego mi ha scritto ancora. Lo so che vi avevo detto, cosa vi avevo promesso dopo che mi ha fatto soffrire così tanto, ma questa volta non ce l'ho fatta. Questa volta gli ho risposto vabbè. È un segreto però, lo sapete soltanto voi lettori del mio blog, tutti e 150.000. Ma che ne pensate? È amore vero? Nome utente Diego Romano. Scegli la tua email. Scialpi, lo so che va in playback @discali.it. Spiacente, l'email è già esistente. Scegli la tua email. Scialpi, cambia parrucchiere @discali.it. Spiacente, l'email è già esistente. Scegli la tua email. Scialpi, braccia tolte all'agricoltura @discali.it. Spiacente, l'email è già esistente. Titi. Ciao Leila. Allora, la mia email è scialpigenio@discali.it. Scusami, ho trovato libera solo questa. E la tua? Da leilaliverani1978@libera.it. Ciao Diego. Ti andrebbe di vederci uno di questi giorni? Così capiamo se è amore vero. Drin! È pronto? Pronto, ciao Leila, sono Diego. Ah, ciao Diego, ti ho appena mandato una. Sì, lo so, ho appena letto. Ah, ho prenotato un tavolo da due io e te stasera al ristorante dal Bucio Cataro, fanno la pizza quella rotonda. Ma Diego, stasera così all'improvviso, quest'anno siamo in secondo ginnasio e... I compiti, certo, giusto, giusto, devi fare i compiti, il dovere prima di tutto. Ma davvero hai prenotato un tavolo per noi due, eh? Dico, davvero hai prenotato? Ma no, ti pare, stavo scherzando, ti pare che prenoto senza prima accertarmi? Sicuro? Ma certo, certo, certo. Magari decidi un altro giorno, ma dai, lasciamo fare al caso, lasciamo fare. Chi è? Ciao Leila, sono Diego, passavo per caso da queste parti e mi sono detto, perché non ci devo telefonare a Leila? Ma Diego, abbiamo appena attaccato al telefono. Appena attaccato, sono passati comunque 40 secondi, Diego. Ah, davvero? Pensavo di più. Il tempo è una cosa davvero relativa, Leila. Che fai, scendi? Ti devo far sentire una canzone che ho registrato per te. L'ho scritta in un momento molto importante della mia vita. L'ho scritta subito dopo che mi hai risposto... Vobbo. Spero che ti piaccia, spero. E quindi giura che mi ami, non ho più riscambio di citofono, ma attacca il campanello perché siamo più lontani come l'ascensore che l'ergastolo, se avevo la vita senza scampo, inciampo. Mi devi dire che ti piace sta canzone, io non mi sono quando vuoi, amore vero tra di noi, le piante trecce, gli occhi azzurri tuoi, che piante trecce, gli occhi azzurri poi. L'amorevero.com. Amici del blog, una domanda che può aiutarmi a capire meglio se è amore vero. Secondo voi, è possibile amare una persona anche se ha scritto una canzone di merda per te? Mi spiego meglio. Può l'amore vero generare una canzone di merda? Bloop. Ciao Diego, ora hai capito come funziona ICQ? Bloop. Certo, certo, faccetta che ride. Bloop. Ora possiamo chiacchierare tutte le volte che vogliamo, non è fantastico? Bloop. Diego? Bloop. Diego? Bloop. Diego, ci sei? Eccomi, scusa, avevo cliccato su una pop-up che diceva che avevo vinto 100 milioni, ma era una mezza sola, era. Certo, senti, possiamo rivederci domani sera perché vorrei capire ancora delle cose tra di noi. Bloop. Domani, ho una data del tour purtroppo. Bloop. A fare il tour? Ma posso venire? Questo magari mi aiuterebbe a capire dal vivo. Bloop. È un po' lontano purtroppo. Bloop. Andate pure lontano. Prendo il trenino, dico a mia madre che dormo da Loredana. Non so, perché ti devi anche vestire pesante, perché lì è un altro clima, è già inverno. Bloop. Ah, davvero? E dove andare a suonare? Bloop. A Montecavo. Bloop. Ah. Sì? Salve, signora, sono Loredana, c'è sta Leila? No, purtroppo no. Dove cazzo è andata questa? Cosa? Scusa? No, mi scusi lei, non è che l'ha detto dove parcheggiava il mio motorino? Perché gliel'ho prestato ieri per andare a Montecavo. Mi serve il motorino. L'amorevero.com. Ciao a tutti i lettori del mio blog. Anche oggi ho capito qualcosa di nuovo sull'amore vero. Ecco le 5 regole. Primo, fedeltà. Secondo, sentimento. Terzo, affinità sessuale. Quarto, progettualità. Quinto, devi sapere suonare una chitarra se dici che sei un chitarrista. Sul quinto punto con Diego sono molto incerta, perché l'ho visto dal vivo a Montecavo e che dire, un'esecuzione davvero, davvero raffazzonata. Ecco, raffazzonata. Ecco. E poi, per dirla tutta, Diego si sente pure un po' sto cazzo, ecco, scusate, ma proprio si sente proprio così, quello che è vero è vero. O forse mi sbaglio, o forse sono io che mi faccio troppo pippe mentali, che ne pensate? Blup. Vasco Rossi, Piero Pelù, Battisti, blup. Ma dici davvero? Ma è assurdo che nessuno ne parli. Bloop. Sì, ma pure artisti stranieri come David Bowie, Bono degli U2, Freddie Mercury. Bloop. Pure Freddie Mercury. Bloop. Sì, pure Freddie. Mi ricordo che ci provava con Peppe, un amico mio. Hanno tutti iniziato a Montecavo questi. Oh, ma dove cazzo sta questa? A me mi serve il motorino, mi serve. Manca la madre, mi sta a rispondere. Sto cazzo di motorino. Questa si è presa l'asino, lo so io, questa si è presa l'asino. Bloop. Senti, Leila, volevo anche dirti che quello che c'è stato tra di noi è stato il mio primo bacio. Bloop. Ma dici davvero? Bloop. Sì, so che ho già 16 anni, ma volevo aspettarti. Bloop. Oddio, Diego, ma è così romantico. Faccetta con gli occhi a cuoricino. Bloop. Leila, che hai fatto agli occhi? Sono tutti gonfi. Bloop. Ma sono dei cuoricini, so. Bloop. Ah, scusa, non sono esperto con gli emotico. E tu hai baciato qualcun altro? Bloop. Beh, qualche bacetto c'è stato con alcuni. Bloop. Voglio i nomi, voglio. Bloop. Va bene. Allora, Alberto, Luigi, Mario, Nicola, ecco. Giacinto, Tommaso, Mario quell'altro, Gian Battista, Nicolas, Luca, Gianni, Luisa, pure Luisa, sì, Antonello, Marco, Giacomo, Giovanni, Anton Giulio, Bonifacio, Livio e Mattia. Ma ti sta dando fastidio che ho baciato anche altri ragazzi? No, faccetta di uno morto. Bene, allora continuo. Michele, Luigi quell'altro, Andrea, Daniele Parisi, Valerio, Gianni quell'altro, Igor, Nando e Pietro. Ma Pietro chi, scusa? È Pietro, ogni tanto ci sentiamo con Pietro. Il mio nome è Pietro e vengo da San Pietro, non per devozione, solo col pallone, ma con questa musica che sento dentro, forse un giorno io raggiungo il basso fondo. Pietro. Il mio nome è Pietro e vengo da San Pietro, le bionde trecce poi, gli occhi azzurri poi, quello che... Ciao Pietro, sono Diego, è stato bello ritrovarti qui su MySpace, sono contento che anche tu ti dai da fare con la musica. Ho sentito il tuo nuovo pezzo, Pietro. Che dire, valido. Incalzante quando fa Pietro, proprio Pietro, veramente ti rimane in testa, ti rimane Pietro. Il problema è un altro, Pietro. Leila. Allora, ho cercato tra gli emoticon uno che facesse vedere io mentre te rompo il culo. Purtroppo non c'è, quindi te venga a prendere a San Pietro con la banda mia, Pietro. Te rompiamo il culo, te famo Pietro sulla faccia, te famo. Ma ha copiato pure la strofa dei bionde trecce, sei infame. A lei lascia perdere, ragazza mia. A lei lascia perdere, capito? A lei lascia sta! L'amorevero.com. Cari amici del blog, oggi ho capito ancora una cosa nuova sull'amore vero. Ho capito che puoi amare veramente una persona anche se pensi che sia un po' coglione. Ecco. È così. Amare un coglione è un'esperienza che non saprei descrivervi. È bello e brutto allo stesso tempo. È bello perché è amore vero. È brutto perché è coglione. Ciao Diego, sono Pietro. Prima di pigliartela con me, che faccio un mazzo la mattina e la sera per andare avanti con la musica, va a vedere che scrive la ragazza tua sul blog, va a vedere www.lamorevero.com, poi me racconti, Ciao tesorino, come stai? Blup. Tesorino? Blup. Ci sei, Diego? Blup. Risulti connesso, Diego? Titi, chat, Diego, prova a chattare, guarda i messaggi. Titi, Diego, mi rispondi, sto a scrivere pure un sms normale, sto a spendere un sacco di soldi. Dream. Diego, sono anni che mi insegui, mi fai innamorare, poi una volta che stiamo insieme scompari, ecco. Ma ti sembra questo il modo di comportarti? Non sei cambiato per niente, sei come elementari, pensi sempre a te. Blup. Diego, lo so che mi stai leggendo, che c'hai? Blup. Diego, perché non mi parli più? Blup. Diego, ti prego, rispondimi. Blup. Diego. Dream. Blup. Ho parlato con Pietro. Hai letto il mio blog, Diego? Blup. Io non credo in quelle cose, Diego. È un blog, è solo un blog dove metto quello che mi passa per la testa. È come se scrivessi un libro. Blup. Diego. Blup. Diego. Blup. Diego, internet fa succedere sempre un casino, Diego. Ti fa credere che siamo vicini, invece siamo lontanissimi. Vediamoci faccia a faccia e ti spiego. Blup. Diego. Blup. Ci sei? Blup. Va bene, scusa. È colpa mia. Sono stata una stupida. Ho sbagliato, ti chiedo scusa. Blup. Diego. L'amorevero.com. Ciao a tutti gli amici del blog. Questo è il mio ultimo post. Non chiedetemi spiegazioni. L'amore vero non esiste perché lo distruggi senza neanche accorgertene. Addio a tutti. Blup. Diego, ho chiuso il blog. Blup. Diego. Faccetta che piange. Blup. Diego. Faccetta che piange, faccetta che piange. Blup. Diego. Faccetta che piange, faccetta che piange, faccetta che non c'è tra gli emoticon. Titi, figo sto pezzo, mi sto a scaricare tutto l'album, Titi, ma che cazzo fai, Diego? Ancora a scarica, c'è stata la polizia postale. Stacca tutto, sbrigati che te beccano. Titi, oh, ho appena fatto in tempo, ho spento tutto. Che smaltita, ma che è sta polizia postale? Titi, sta a scherzare, Diego? Ma che ci hai creduto? La polizia postale. Ma vaffanculo, Diego, se vediamo stasera in saletta. Nome utente, Leila Liverani. Studi, corso di laurea in lettere moderne. Professione, scrittrice. Invia richiesta di amicizia. Blup. Ciao Leila, come stai? Forte sto Facebook, oh. Beccato pure la De Dominici, so. Mazza quanto sei invecchiato. Ma non ho ancora capito. Ma lo leggono tutti questo messaggio? No, perché se lo leggi la De Dominici mi mette la nota sul registro. Scherzavo. Blup. Ho visto che hai accettato la mia richiesta. Come stai, Leila? Blup. Scusami un attimo che devo rispondere a una certa Irina che cerca di parlarmi da giorni. Blup. Tu allora potere aiutare me? Blup. Ciao Irina, purtroppo in questo momento non ho i soldi che mi chiedi, ma tu come hai fatto a perdere il portafoglio all'aeroporto? C'è una bella ragazza come te, non c'è nessuno che può aiutarti lì in Russia. Blup. Eccomi di nuovo qui, Leila. Ho letto sulla tua bacheca che fai la scrittrice, hai visto? Significa che i soldi possono realizzarsi. Scusami, c'è ancora questa Irina che mi ha riscritto. Blup. Tu mandare foto sexy me? Blup. Cosa, scusa? Blup. Io volete trovare uomo serio, piacente, che fa famiglia con me, amore e rispetto? Blup. Vabbè, Irina, un problema alla volta. Adesso risolvi questa cosa dei soldi, ok? Blup. Eccomi, Leila. E niente, sono passati diversi anni. Il tempo rimargina molte ferite. Se ti va, spero avremo occasione di parlarne davanti a un caffè. Blup. Ciao Diego, mi fa piacere risentirti, ecco, non so per il caffè perché è un numeroso impegno a breve raggio. Sta uscendo il mio nuovo romanzo, sai, quindi. Ma tu vivi a Roma? Blup. Sì, sì. Blup. Con i tuoi o da solo? Blup. Da solo, sto a Torpigna, proprio a via di Torpigna a Tara. Blup. E numero? Blup. 54, perché? Sì, chi è? Ciao Diego, sono Leila, passavo qua per caso, che facciamo? Ci salgo? Blup. È Leila. Vabbè, sali. Sì, sì, oh, oh, sì, sì, oh, oh, sì, sì, oh, oh, sì, sì, oh, oh. Finalmente, vero? Sì, sì. È bello stare abbracciati. Sì, hai visto quanto è bello? È bello, siamo vicini, vicini. Non ti sembra un po' strano? Un po' sì. È come se ci fossimo sempre parlati attraverso qualcosa, invece ora... infatti. Ora però possiamo parlare veramente. Certo. Va bene. Spengo la luce. Spegni, sbrigati. Clic. Nome utente, Diego Rock Sound. Situazione sentimentale, impegnato. A cosa stai pensando? Pazzesco, meraviglioso. Ancora non ci credo. Oggi è successa una cosa incredibile. I sogni possono realizzarsi e oggi ne ho avuto la prova. Ecco a voi finalmente il mio disco. Potete ascoltarlo all'indirizzo www.diegorocksound.com. Si intitola L'amore vero. Dateci sotto qui dall'onde, ragazzi. 360 mi piace. Blup. Dai, sei un grande Diego. Blup. Grazie tesoro. Ti amo. Blup. Anche io, lo sai. Blup. Il titolo Amore Vero è molto intimista. Sarà un disco intimista? Blup. Sì, molto, grazie. Blup. Sei fantastico. Blup. Pure tu. Blup. Ciao Diego, sono Leila. Che dire, complimenti per il disco. Che bel titolo che ha, eh? Vedo che ti interessa molto l'amore vero, no? Che strano. Lo stesso argomento che io tratto nel mio nuovo romanzo, nonché che studio da più o meno 20 anni e che in qualche modo definisce la mia poetica come scrittrice anche intellettuale. Ma non potrei certo mettere in discussione la tua onestà intellettuale. Ci mancherebbe. Certo, qualcuno potrebbe parlare di plagio, altri di frode. Un mi piace. Blup. Possiamo scriverci in privato, Leila. 76 mi piace. Blup. No, caro, io in queste 2 settimane che siamo tornati insieme ti ho parlato del mio nuovo romanzo, tu invece non mi avevi mai parlato di questo tuo concept album sull'amore vero. Un mi piace. Blup. Leila, quando vuoi ne parliamo. 178 mi piace. Blup. No, adesso. Un mi piace. Blup. Ma che cazzo sei tu? Ma tu, Diego, è un grande artista. Tu invece che cazzo sei? 238 mi piace. Blup. È una scrittrice famosa della Liberani. Sei tu un ignorante che non lo fa. Ha vinto pure un sacco di premi. 0 mi piace. Blup. Ma lui che cazzo sei? Cioè tu che difendi questa che già non è in cazzo. Tu che difendi questa che non è in cazzo. Che cazzo sei tu? 430 mi piace. Blup. Sono Loredana, l'unica che gli ha messo mi piace fino adesso. Perché io non la tradisco, lega. Mica come fanno certi. 0 mi piace. E andate tutti a fanculo. 12 mi piace. Drin. Pronto? Leila, voleva dirti. Sei una merda, sei tu. Drin. Pronto, Leila. Sei una merda, tu. Drin. Drin! Pronto, lei l'aspetta. Sei una merda, sei tu. Bloop. Hello, Diego, io sono Irina. Bloop, ciao Irina. Bloop. Tu come stare faccia tu? Bloop, scusa Irina, è un momento un po' così. Bloop, tu manda foto sexy me? Bloop, non mi sembra il caso adesso di mandare foto sexy. Bloop, tu ha webcam? Bloop, sì. Bloop, Skype? Bloop. Va bene, spero almeno di riuscire a usarlo. Ecco, mi vedi Irina? Tu mi vedi? Oh, io ti vedo, eccolo. Oh, finalmente hai un volto, Irina. Ah, ma che stai a fare? Ma che ti stai a spogliare? Ma perché ti stai... Che è quel oggetto? Irina, ma... Irina, te fai male, tu stai... Irina, che dici? No, io... Perché mi devo togliere le mutande, Irina? Ma che stai... Ma chi è quello? Oh. Irina, ferma, ti sta a fare male. Irina, ferma. Oh. Ma quanti siete? Ma questi sono matti, sono questi. Ma alla fine la protagonista del suo romanzo riesce o no a trovare l'amore? Ecco, sì, rovinerei il finale per i miei lettori. Certo, ma almeno ci dica se la storia si ispira a una sua vita vera, no? Cioè, se è molto di autobiografico in questa continua ricerca dell'amore vero, come lo chiama la protagonista? No, assolutamente, capirai. Pensa che i social network possano avere un buon ruolo nella promozione della letteratura? No. In che senso, scusi? No. Blup, posto questa intervista sul mio profilo per rispondere alla polemica che c'è stata in questi giorni su una grande scrittrice di nome Leila Riverani. Blup, oh, troppo forte il tuo sarcasmo. Blup. Ma il grande, intendi rottura dei coglioni, Diego? Intendi questo? Blup, ragazzi, per cortesia, non è uno scherzo, è una cosa seria. Blup, oh, mi fa sta tagliau, sei sempre il solito. Blup. Scusate, mi stavo a leggere la trama del libro, mi sono un po' accasciato, mi sono perso qualcosa. Blup. Ragazzi, non mi sembra giusto giocare e prendere in giro la mia opera letteraria senza neanche averla letta, e poi con tutti questi errori d'ortografia per giunta. Blup. Scruzza. Blup. Hai ragione, siamo tutti sgrammaticati. Blup. Pure io mi sento che scrivo strano. Blup. Ma che davorio. Blup. Oh, io mi sono dimenticato come si scrive. Blup. Basta, ok? Blup. Va bene. Blup. Io pure mi interrompio. Sa. Prova. Si sente, sa. Sa. Eccomi su YouTube, Leila. Posto questo video davanti a tutti perché mi sembra la cosa migliore dopo le polemiche di questi giorni. Allora... Io mi sono sempre sentito inferiore a te, Leila. Per questo ti ho copiato e ti chiedo scusa. Però ho fatto sempre tutto per starti vicino, anche quando non volevi. E se fosse questo l'amore vero, Leila? Ecco, io vorrei togliere tutto quello che c'è in mezzo tra me e te per stare sempre più vicini. Solo questo. Secondo me il mio è amore vero. Nome, utente, Leila Riverani. Studi, corso di laurea in lettere moderne. Professione, scrittrice. Situazione sentimentale, fidanzata con Diego Rock Sound. Bloop. Senti Diego, senti questa qua. Annunci immobiliari, 75 metri quadrati, 3 locali, bagno, cucina, affitta a Roma, soli 1400. Te piasse in colpo, te piasse. Titi. Amore, hai comprato il tappeto? Titi, sì. Titi. E quanto hai speso? Titi, TVB. Titi, Leila, quanto hai speso? Titi, TVTTTBU. Titi, Leila, quanto cazzo hai speso? Drin. Pronto, salve, sono Diego Romano, la chiamo per quella strada della porta da fare. Ma sicuro che è il muro maestro? Non perché se viene di tutti, ma ammazziamo qualcuno, finiamo tutti in galera. E chi è? Signore, abbiamo portato la lavatrice, che piano è? Prima di tutto sono signorina e non signora. Che piano è? E poi amo portato, che cos'è questa, una crasi? Da voi questa esigenza di contrarre? A Zanichelli sta riportando al negozio e te viene a pia da sola? Sono stato contratto? Come la vedi? Secondo piano, è aperto. Titi! Senti questa, Leila. When the connection, the receiver, the other equipment, TV, VCR, an amplifier, Mac, sure to refer. Ma che vuol dire? Ma puoi scrivere una cosa del genere per le istruzioni di un televisore? Bloop. È una cosa bellissima quella che mi è stata a chiedere. Non sono mai stata testimone dei nostri di nessuno. Te avevo detto che Diego alla fine non era malaccio. Ti ricordi che te l'avevo detto? Titi! Ma sei sicura? Titi, faccio un altro test. Titi. Mamma mia, speriamo. Titi, cazzo sta di... Io devo scrivere il terzo libro. Non posso essere madre. Drin. È pronto? Pronto, ma... Ciao, Leila, dimmi. A che mese sei? Maschio o femmina? Vuoi che vengo lì? Vengo lì. A cosa stai pensando? Benvenuto, piccolo mio. Mamma e papà ti stavano aspettando. 1200 mi piace. Blup. No, mi devi credere, è un'occasione. Blup. Ma sei sicuro, sei sicuro, Diego? Blup. Famo solo pizzeria, il Bucio Cataro è sempre andato bene, zona trafficata. Blup. In effetti, il Bucio Cataro non c'ha mai avuto problemi di clientela. Blup. Dammi retta, 2 anni e se ripiamo le spese. Siamo in diretta su Radio 82 con Leila Riverani, scrittrice e autrice. Leila, perché un libro di favole? C'è forse qualcosa di autobiografico legato a questa scelta? Ma no, no. A volte si pensa che lo scrittore parli sempre titi. Scusate un attimo. Leila, Armando sta vomitando da 2 ore, lo porto al pronto soccorso. Davvero, Leila, niente di autobiografico? Beh, ecco, chiaramente il mio essere madre ha senz'altro influito. Titi, scusate ancora. Armando è incontenibile, vomita verde, è normale. Nel libro si parla molto di questo padre. Eh sì, sì, sì. Viene descritto come attento e sagace. Si fa riferimento al suo compagno, Titi. A Leila, Armando ha vomitato sul tappeto. È anche lui attento e sagace, vogliamo dire? No, in che senso, scusi? Mio marito non è sagace, neanche attento, ecco. Mio marito è un po' coglione. Titi! Amore, ma sto WhatsApp di cui parlano tanto, ce lo installiamo oppure no? Titi! Grotz! Titi! Certo, per quello te lo sto a dire. Titi! Vb! Che con tutti questi messaggi sto spin un sacco di sord! Blup. Scusa amore, mi è entrato un gruppo da 5, non posso chiudere. Voi intanto andate, vi raggiungo dopo. Blup. Guarda che facciamo tardi, Diego. Blup. E che te devo dire, sono entrati questi in pizzeria. Blup. E mandali via. Blup. E poi che se mangiamo pane e premi letterari. Blup. Ma chi sono questi? Blup. Turisti, dai, mi sbrigo. Ti messaggio tra 5 minuti, voi intanto andate. Blup. Hai fatto, Diego? I bambini vogliono uscire. In libreria ci stanno aspettando tutti. Blup. Ah, ancora stanno qui, purtroppo, ma ti avevo detto di andare, no? Blup. Digli che chiudere, mandali via, stiamo a far tardi. Blup. Io ho detto, ma non capiscono. Blup. E come non capiscono? Blup. È una comitiva dei giapponesi. Blup. Ma diglielo in inglese, diglielo gom, si dice gom. Blup. Aspetta che ci provo. Tu intanto vai, dai messaggio dopo. Blup. Diego, siamo arrivati in libreria, tra 20 minuti iniziamo la lettura, ci stanno tutti, mia madre, Loredana, Pietro, c'è pure un sacco di roba da mangiare. Sbrigati, Pietro! Blup, scusami, sto in mezzo al traffico, non posso scrivere. Blup, ma ti aspettiamo? Blup, non posso scrivere che sto a guidare, no, no, comunque non mi aspettate, iniziate che qui è un casino. Dream! Dream! Dream! Blup. Perché non mi rispondi, Diego? Blup, Diego, ci sei? Blup, Diego, è un'ora che stai in viaggio, tutto bene, Diego? Blup, scusami, ti mando questo messaggio audio. Non posso scrivere, sto guidando, c'è traffico tremendo. Ci sentiamo dopo che mi fermano i vigili. Ciao, ciao, ciao. Blup. A te fermano i vigili. Trin. Drin. Drin. Blup. Mi rispondi? Blup. Diego? Drin. Drin. Drin. Blup. Diego, rispondi immediatamente. Dove cavolo stai? Blup. Eccola là, ecco. Mi hanno fermato i vigili. Che ti avevo detto? Ci sentiamo dopo. Dai. Ecco il libretto, ecco il libretto. Blup. Porca miseria, non mi ricordo se abbiamo fatto la revisione. Blup, l'abbiamo fatta? Blup, Diego, ti hanno fatto la multa per la revisione? Blup, Diego, che succede? Blup, Diego? Blup, tutto ok, purtroppo non c'è la patente, devo seguirli al commissariato, ma è qui vicino, poi ti dico. Blup, non la porti mai, che ti avevo detto io, qualche la devi portare che fermano. Blup, ma ti hanno fatto la multa per la revisione? Blup, Diego? Blup, Diego, messaggiami appena puoi, io ti saluto che qui iniziano a leggere il mio libro. L'orsetto e l'orsetta di Leila Liverani. C'era una volta un orsetto e un'orsetta che volevano essere più vicini. Il bosco è troppo fitto, disse l'orsetta. C'è sempre un albero tra me e te, abbattine qualcuno. Perfetto, disse l'orsetto. Ci penso io. Adesso ti vedo bene, disse l'orsetta, ma non ti sento alla perfezione quanto gli altri animali fanno rumore. Se urlo mi senti? Disse l'orsetto. Sì, disse l'orsetta. Perfetto, disse l'orsetto. Solo che dopo un po' cominciò lui a lamentarsi. Ti vedo e ti posso ascoltare nel tuo dolce grugnito, orsetta, ma non è abbastanza, parliamoci chiaro. Mi sta vicino come te pure quella marmotta, pure quello scoiattolo, per non parlare di queste fastidiosissime pulci. Facciamo così, disse l'orsetta, vengo a vivere nella tua grotta, che dici? Perfetto, disse l'orsetto, perfetto. Che però dopo un po' nella grotta pensò che la grotta era buia, ti poteva stare vicino chiunque, neanche lo vedevi. Hai ragione, disse l'orsetta, ieri forse ho accarezzato un topo pensando che eri tu. Ho un'idea, disse sempre l'orsetta. Per stare più vicini potremmo dormire nello stesso letto. Perfetto, disse l'orsetto, perfetto. L'orsetto glielo voleva chiedere già da subito, dalla prima volta che si videro da veramente molto lontano nel bosco, ma poi avrebbe pensato che era un maiale. Drin, drin, drin, Blup. Diego, ci sei? Blup. Perché non mi rispondi? Blup. Tutto bene al commissariato? Blup. Sto in pensiero, Diego, scrivimi. Blup. Diego? Blup. Tutto bene, Leila. Sto a parlare col vigile e deve trarla come nonna, mo te dico. Blup. Ah, bene, quindi non te l'ha fatta la multa. Blup. Diego? Blup. No, no, non me l'ha fatta. Blup. E meno male, meno male. Ma quando arrivi? Blup. Ti metto da parte qualcosa prima che finisce? Qualcosa da mangiare? Blup. Diego? Blup. Scusami, il vigile urbano è mezzo cugino di Antonello, te lo ricordi, Antonello? Blup. Sì, Antonello. Blup. Mi sta attaccando a pippa, dice che poi vuole fargli un'improvvisata, insomma, appena finisce di parlare giuro che vengo. Blup. Ma non era morto il tuo cugino Antonello? Blup. Eh sì, cavolo, c'hai ragione. Aspetta che glielo dico. Blup. Diego, però vieni subito qui dopo, eh? Blup. Diego? Blup. Stai guidando? Blup. Diego? Blup. Scusa, lei l'ha presa male, questo non lo sapeva che era morto. Blup. Oh, mannaggia, cavolo. Blup. Ti scrivo tra un po' che lo sto a consolare. Blup. È certo, tanto qui stanno ancora leggendo la favola. Ma una volta che erano a letto, sdraiati l'uno accanto all'altro, Orsetto sentiva che ancora mancava qualcosa. Eppure secondo me, disse Orsetta, mi è venuta un'idea, disse sempre Orsetta, abbracciamoci. Perfetto, disse Orsetto, perfetto. È bello, no? Eh sì, hai visto quanto è bello? È bello. Eh sì, siamo vicini vicini. Stai stringendo forse un po' troppo forte, Orsetta, disse Orsetto. È che sento che ancora manca qualcosa, disse Orsetta. Il respiro, forse, Orsetto, disse. No, no, no, è che forse c'è troppo pelo, suggerì Orsetto. E te lo stavo per dire io, disse Orsetta. Eh sì, perché, disse sempre Orsetto, tra il mio e il tuo ci separano almeno 3-4 centimetri. Ecco, non siamo mai completamente vicini, neanche abbracciati. Tagliamoci il pelo, disse Orsetta. Perfetto, disse Orsetto, perfetto. E così si tagliarono tutto il pelo. Faceva molto freddo, ma potevano scaldarsi tra di loro ed era davvero bella questa sensazione della pelle contro la pelle. E li faceva sentire molto vicini. Manca sempre qualcosa, vero? Disse Orsetta. Eh sì, disse Orsetto. Forse la dignità, visto che si sentiva l'unico orso glabro del bosco. Il fatto è, disse Orsetta, che c'è ancora qualcosa in mezzo tra me e te. È vero, disse Orsetto, anch'io lo sento. E allora Orsetta disse, io vorrei starti più vicino. Forse potremmo togliere la pelle, disse Orsetta. Aspetta un attimo, fa Orsetto, buona, la pelle fa male. Blup. Diego, è mezz'ora che sta a parlare con questo. Blup. Eccomi, scusa, sono a casa sua, c'è una mezza festa con i colleghi, lo stiamo a tirare su del murale. Blup. La mezza festa, Diego. Blup. Diego, vieni immediatamente qui. Blup. E come faccio, Leila? Mi ha tolto la multa, la moglie mi sta a cucinare la carbonara. Drin, drin, drin. Blup. Perché non rispondi, Diego? Drin, drin, drin. Blup. Diego, rispondi immediatamente. Blup. Scusa, Leila, ha abbassato la suoneria. Non te posso richiamare adesso perché il vigile sta a fare un discorso, sta mezzo ubriaco davanti a tutti. Blup. Diego, ma mi hai preso per scema? Blup. Diego, con chi stai? Blup. Diego, che stai facendo? Veniamo lì. Facciamo così, mi dai l'indirizzo e veniamo lì. Blup. Che intendi, scusa? Blup. Vengo lì dove stai, che sono proprio curiosa di vederlo questo posto. Blup. Guarda che chiedo, aspetta, chiedo un attimo, però la casa è un po' piccola. Blup. E guarda caso, mo la casa è piccola. Stiamo venendo, Diego. Diego, se non mi dai immediatamente l'indirizzo di dove stai. Blup. Ok, ha detto che si può, ci stringiamo un po'. Blup. Dici davvero? Blup. Sì, sì, è gente alla mano. Allora, via Laurenzi 74, sbrigate. Blup. Beh, non so se posso adesso, ancora non è finita la favola. Blup, dai, vieni, sono simpatici. Blup. Ok, stiamo scendendo. Blup. Niente, lei è arrivato un vicino, si è lamentato per il rumore, ci stiamo a spostare, poi te dico. Blup. Diego, i vicini si sono lamentati per una festa dei vigili urbani. Blup. Diego. Blup. Diego, con chi stai? Blup. Diego, se non arrivi entro 5 minuti, Diego. Drin. Drin. Drin. Blup. Diego, ti lascio. Blup. Addio, Diego, mi porto via i bambini. Blup. Lei la sto venendo, questi mi hanno rotto, sono 3 ore per decidere un posto, venga a casa o in libreria. Blup. Diego, finisce tutto, sono le 5, dovevi stare qui alle 2. Blup. Ti lascio, tu mi tradisci, Diego. Blup. Ma che sei matta, ma come fa a pensare una cosa del genere? Blup. Come faccio a pensarlo, sei un pezzo da merda, mi dici bugie, mi tradisci. Blup. Tu segna tutto che dopo me leggo con calma, mo sto a guida. Blup. Ma vaffanculo, va. Lo so che fa male togliersi la pelle, disse Orsetta, ma magari è l'ultimo sacrificio che dobbiamo fare per stare davvero vicini, vicini come non è mai stato nessuno. Sicura, disse Orsetto, con la pelle d'orso ci fanno i tappeti. E poi, disse sempre Orsetto, levata la pelle ci sarebbero i muscoli, levati i muscoli ci sarebbero le ossa, levate le ossa ci sarebbero i polmoni, la milza, il fegato e poi il cuore e il cervello. Orsetta, il cuore e il cervello sono un classico, cioè si mettono in mezzo tra di noi anche adesso, non ristaremo forse al punto di partenza? Blup. Lei là, sto a casa, ma dove state? Blup. Lei là. Blup. Oh, dove siete andati, cavolo? Blup, Leila, rispondimi. Blup, Leila, ho avuto dei contrattempi, mi sono fatto un culo così per arrivare in tempo. Blup, ci abbiamo avuto pure culo che non si sono accorti della revisione che la dovevi fare tu. Blup, io mi faccio un mazzo tutti i giorni, Leila. Può succedere che uno ha dei contrattempi a volte. Blup, dove siete, Leila? Blup, Leila, tutti fissi, cioè le allucinazioni, cioè non capisci che sto facendo davvero del mio meglio. Blup, ti ho messaggiato tutto il tempo, neanche fossi scomparso come stai facendo tu, eh? Blup, Leila. Blup, Leila. Blup, Leila, dove sei? Blup, lo sai dove sto, Diego? Blup, oh, finalmente, dove cazzo stai? Blup, a via Laurenzi 74. Blup, ah. Blup, c'è sta l'aeroporto dell'Urbe, c'è sta. È vero, disse Orsetta. Levata la pelle ci sarebbero i muscoli, levati i muscoli ci sarebbero le ossa, levate le ossa ci sarebbero i polmoni, la milza, il fegato e poi il cuore e il cervello che sono un classico, ma se tu me lo chiedessi, io mi toglierei tutto questo per te. No, rispose Orsetto, non farlo, per favore non farlo. E così Orsetto e Orsetta capirono che ci sarebbe sempre stato qualcosa in mezzo a loro. Poteva essere un fiume, un bosco, un telefono cellulare, i genitori, internet, Facebook, la pelle, le ossa, le onde sonore che si mettono in mezzo quando pensi di ascoltare una voce, la luce che si mette in mezzo quando pensi di vedere un volto. Orsetto e Orsetto capirono che sarebbero sempre stati un po' lontani. Eppure, nonostante questo, la vita andava avanti e non si abbandonarono mai. Sa, prova, sa, ma funziona sto dito, Leila? È certo che funziona, ma te devi allontanare. Sa. Non ci soffia sopra. Va bene così. Avvicinate. Eccomi. Allontanate. Così. Avvicinate. Allontana. Ma che stai, usa l'indice? Sì. Col pollice si fa. Ah, è vero, c'hai ragione. Madonna, sei un vecchio rincoglionito, sei. A lei là, ma non ci potevo chiamare su Skype, non ci potevo. Sì, e poi ci mettevamo la cuffietta. Ancora nel medioevo, stai, meno male che se siamo lasciati. Dimmi sta cosa che mi devi dire. Niente, devo ripassare in ospedale. Ancora? Eh sì, te lo volevo dire, sì, perché se mi puoi fare sto favore che vai a prendere i nipotini tu sulla luna. Mi mandi sulla luna un'altra volta, mi fai fare tutto sto viaggio. C'ho questa piccola operazione, lei là, ci vado sempre io a prenderli poi. E venerdì a danza su Saturno chi ce li porta? Lo so, lei là, adesso chiedo un favore. E vabbè, dai, chiedi a Loredana se mi presta l'astronave, ma che operazione devi fare all'ospedale? Ma niente, dai, oggi con sta medicina moderna ti riempiono delle piccole operazioni, sai com'è. Ma poi che ti accompagno? Magari li vado a prendere prima e vengo con loro. A che ora ci devi andare? No, dai. Alle 3, capirai, torniamo tutti sulla terra, c'è un sacco di traffico, alle 3 non si può. Poi magari ci vediamo dopo. Oh, non mi fa brutti scherzi, Diego. Ti ho dato un pezzo di cuore. Capirai, ti è ricresciuto subito dopo. Vabbè, la milza, il globo odorale, il polmone destro. Oh, ti stavano a mettere quello di un maiale, eh? Ti sono cresciuti subito dopo, dai, con sta amicizia moderna, ma non sta a fa. E poi non sei contenta, non ti sei sentita che stavamo un po' più vicini? Ma vaffanculo, Diego. Vedi da non fa scherzi, ci sentiamo dopo. Va bene. E fai attenzione dove te lo metti sto dito, che l'altra volta ti è partita una chiamata, si sentiva tutto, si sentiva. Ti. Diego. Ciao Leila, spero ti sia arrivato questo bigliettino. È importante. A volte le cose importanti sono scritte su un bigliettino di carta. Volevo dirti che anche quest'ultimo giorno di scuola è illuminato dai tuoi occhi molto belli. Grazie di tutto, Leila. Dopo, se vuoi, vedo un pezzo di pizza. Leila. Ma chi è, oh? Ma chi è? Leila, sono Diego. Ma Diego, ti ho detto che non mi devi comparire di notte, hai capito? Ti amo. Pure io, ma mi fai pian colpo. Oh, so sola io, Leila, oh, te vuoi sta zitto? Mi è rimasto soltanto da dormire e da mangiare. Se mi togli pure questo, oh. Va bene. Pure di notte ci si mette questo. Buonanotte, Diego. Buonanotte, Diego e Leila. Se sentimo domani.